Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre alcune informazioni rapide. La prima è il nostro sito radio24.it. Lì trovate la possibilità di abbonarvi al podcast, quindi scaricare tutte le puntate. Lo potete fare anche in tempo quasi reale a partire dalla mia trasmissione che viene in onda molto presto, ma potete tranquillamente ascoltarla come quando volete. Nel profilo dei giornalisti, per chi lo ha, voi lo sapete, io ne ho uno, ci sono i blog con i quali interloquire, e il mio blog, lo sapete, è Guardie o Ladri. Di cosa parlo? Dei temi che amo affrontare: legalità e criminalità organizzata. Ultima informazione di servizio è quella relativa alla nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. A questa mail si è rivolta una nostra radioascoltatrice di Pordenone, Cristina Vedovi, che è responsabile amministrativa di una cooperativa sociale che svolge attività con minori, persone che hanno dei problemi, disabili, per il loro inserimento nel contesto di vita sociale e lavorativo. È per questo che ho preso in considerazione con maggiore attenzione la sua lettera, perché oltretutto un'attività onlus è comunque un'attività economica, voglio dire, svolge un prezioso ruolo sul territorio in cui insiste. Il problema che ha avuto questa cooperativa sociale è stato con una compagnia telefonica H3G che nel passato abbiamo avuto nostra ospite per un problema di chiavetta, e devo ringraziare H3G per la disponibilità con la quale affronta sempre i temi che gli sottoponiamo. E noi abbiamo in trasmissione la dottoressa Cristina Vedovi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. E il dottor Fabio Marra, che è il direttore del servizio clienti di H3G. Buongiorno Marra. Buongiorno, buongiorno. Allora, dottoressa Vedovi, io direi di partire dalla vostra piccola disavventura, grande disavventura, questo lo giudichi lei, con H3G, e quindi vorrei capire qual è il caso contro il quale lei ha, come dire, si è imbattuta. Dunque, partiamo dal fatto che abbiamo diversi servizi esterni alla cooperativa e quindi può capitare di aver bisogno di un cellulare da fornire ai nostri operatori. E in questo caso noi abbiamo avuto contatti con una persona che si è presentata a nome della compagnia A3, e così abbiamo deciso di sottoscrivere un contratto per un cellulare. E questo contratto sostanzialmente prevedeva un importo per un certo numero di telefonate e anche il noleggio del video cellulare. Certo. Diciamo che i problemi sono nati fin da subito, nel momento in cui noi abbiamo sottoscritto con questo agente contratto che si chiamava B-Magic, però dopo alcune fatture che ci arrivavano non tornavano, insomma, con i conti che avevamo fatto noi, ci siamo resi conto che in realtà ci stavano addebitando un importo per un contratto che non era B-Magic. Ma era B-Easy, leggo qui. B-Easy, sì. E così abbiamo scoperto che c'erano due contratti B, B-Magic e il B-Easy. Allora, la B era comune, soltanto che uno era magico e l'altro era semplice. È chiaro. Ora, nel momento in cui è stato compilato il contratto, che è fatto di un'infinità di fogli, fatto con l'agente in questione, chiaramente non è che abbiamo notato questa cosa. Nel contratto è stato scritto che è sottoscritto il contratto di tipo B, c'è proprio la lettera B. Certo. Quindi non ci eravamo resi conto che ci fossero due tipi di B. Quando poi, cercando di capire con la 3 che cosa era successo, è venuta fuori questa cosa, mi ha detto: beh, noi non avevamo sottoscritto un B-Easy, ma un B-Magic. Sta di fatto che non siamo riusciti a risolvere il problema nel momento in cui sarebbe stato la gente a dover dichiarare sua colpa. Nel momento ecco, in ma cui io infatti proprio questo qui volevo chiederle, cioè se voi avete scelto e vi aspettavate una bolletta X, non la chiamiamo B, X, vuol dire che voi vi riferivate a quel tipo di contratto e qualcuno vi avrà dovuto dire: queste sono le caratteristiche peculiari di questo che andate a firmare, cioè il B-Magic, perché altrimenti, se non l'avesse fatto, sarebbe stato, come dire, a dir poco scorretto da parte del rappresentante di H3. Quindi voi avete firmato perché qualcuno vi ha detto le peculiarità di B-Magic, giusto? No, ma infatti noi, per come erano le descrizioni del contratto che abbiamo sottoscritto, le caratteristiche si riferivano al B-Magic. Ecco, ma per capire, qual è la differenza che voi vi siete trovati in bolletta tra l'uno e l'altro? Beh, credo sia perlomeno più del doppio, insomma, come cosa. Cioè, noi avevamo sottoscritto un contratto che prevedeva veramente una cifra molto bassa, e, cioè, al di là proprio dell'importo specifico, quando uno vede più del doppio. All'inizio, sai, uno magari pensa, che ne so, con costi di avviamento delle cose, per cui non ce ne siamo accorti immediatamente. Certo. Qualche fattura, perché queste fatture di un importo elevato si ripetevano, questa cosa qua ci è stata all'occhio e quindi abbiamo cominciato a chiedere il perché. Benissimo. E su questo perché poi avete avuto difficoltà di contatti con H3G? Ma diciamo che in questo caso più che altro H3G ci ha risposto che sostanzialmente era l'agente che aveva sottoscritto con noi questo contratto che doveva risolvere la questione nel momento in cui aveva sbagliato lui. Cioè, però voglio dire, era la nostra parola contro la sua sostanzialmente. Certo, però voglio dire, non si è attivato per farlo, mi pare di capire. No, perché poi insomma sì, sarebbe venuto, poi non è venuto, non si è presentato, poi eravamo sotto Natale, insomma non si è mai più visto. Insomma, esatto, non si è mai più visto, e voi a un certo punto, da quel di Casarsa della Delizia, vi siete rotti le scatole e avete deciso di rivolgervi a Radio 24. Marra, siete così cattivi? Ma io spero proprio di no, nel senso che abbiamo provato a capire questo caso, e poi è chiaro, visto anche la tipologia di cliente, ancora con più sensibilità, nel senso che speriamo sempre che di queste difficoltà non capitino mai. Allora, in generale diciamo che stiamo parlando di due tipologie di contratto che sono, è vero, hanno questa B in comune, ma questo è tipico di tante offerte che vengono poi proposte perché caratterizzano una certa tipologia di prodotto, diciamo così. La piccolo principe, quindi nella persona del rappresentante legale che è la signora Giuliana Colussi, ha sottoscritto, che è la titolare di fatto del contratto, ha sottoscritto un B-Magic che a fronte di un canone mensile di 3 euro prevede 10 ore di chiamate e 10 ore di videochiamate verso numeri aziendali, quindi non esterni, e più invece traffico voce a pagamento verso altre direttrici, quindi altre telefonate, laddove invece ha sottoscritto, e quindi quello che non si aspettava, un B-Easy, esatto, che invece prevede un canone di 19 euro, un telefono, allora quando l'aveva sottoscritto ha preso, adesso magari non tutti siamo degli esperti di telefoni, però era un Nokia N90 che al tempo della sottoscrizione del contratto era il telefono top, era un telefono che era tipo sui 900 euro, poi c'era lo sconto su questa cosa. Quindi ecco, però il problema non è tanto nello sfavillio degli strumenti, è nel fatto che uno pensa di aver comprato Cacà e invece ha comprato Robinho, due grandissimi giocatori, però io volevo Cacà. Allora, certo, il punto è qui sulla buona fede del vostro cliente o della buona fede del vostro rappresentante. Allora, in questi casi come si comporta H3G? Perché io do la buona fede del cliente, ma per carità anche del vostro rappresentante, si dovrebbero con il buon senso risolvere queste cose. E allora come si comporta H3G? Allora, la prima cosa che si fa è andare a vedere il contratto. Questa è la e va bene, l'abbiamo capito che avevano firmato X anziché Y. Il contratto è insomma è chiaro. Su questo non ci sono dubbi. La seconda cosa che facciamo, e questo lo facciamo noi internamente, è andare a vedere effettivamente se ci poteva essere, diciamo, dell'interesse da parte dell'agente nel vendere una cosa piuttosto che un'altra. Così cosa abbiamo fatto? Un esercizio. Siamo andati a vedere qual era la fattura media che ha pagato il cliente avendo sottoscritto questo contratto, e abbiamo provato ad applicare le tariffe dell'altro. Quindi per andare a capire se effettivamente c'era. E in realtà è esattamente la stessa. Abbiamo fatto un esempio sul mese di settembre, ad esempio, dove sono state spese circa 37 euro, veniva esattamente 37 euro. Ecco, allora però qui la cosa si confonde. Innanzitutto allora perché non si capisce perché voi proponiate due tipi di contratti diversi se la spesa è la stessa. Secondo me il punto non è questo, è il fatto che io credo, perché quello io voglio firmare quel contratto e io invece quel contratto non lo firmo. Allora, qui c'è un muro contro muro, è questo che voglio sapere io, Marra, un muro contro muro, cioè quel contratto rimane oppure quel contratto si torna indietro? No, allora, qui ovviamente io adesso quello che le dico è come si ricostruiscono queste cose. Evidentemente noi abbiamo degli agenti che sono degli agenti che vengono controllati, monitorati, vengono fatti i controlli di qualità. La prima cosa che facciamo è prendere le ragioni del cliente. Per definizione viene fatto, viene verificato, a quel punto abbiamo un contratto che è corretto. Il secondo passaggio, quello che le dicevo, appunto, andare a verificare se effettivamente ci poteva essere, diciamo, un interesse non... No, no, ma questo, però, Marra, lei non risponde alla mia domanda. Voglio dire, da quel contratto voi tornerete indietro oppure no? Le verifiche abbiamo capito che le avete fatte, buona fede dell'uno e buona fede dell'altro, questo nessuno lo mette in dubbio, ma da quel contratto si torna indietro o no? Beh, il contratto è stato disdetto, quindi c'è una disdetta in piedi, quindi il contratto non esiste più. Ok. E quindi su questo è il punto è chiuso, però a me premeva spiegare. No, no, ma l'ha spiegato bene, lo ha spiegato bene. Grazie al nostro radioascoltatore, a Marra, che è il direttore del servizio clienti di H3G, a Filippo Oreggi in regia, Elisabetta Fusconi in studio e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.